Sì, questa. Zotta sul muro e la mimosa è cu con la sua marie. Zotta che cura domani. Zotta che cura domani. E la zotta mi da briga e la mostra la fi glur sul bel viso. Zotta che corfurato mai, zotta ma la notte che corfurato mai. E la zotta mi dai mi pazzo e la mi mostra e ca cappuccio giù dalle spalle. Zotta che corfurato mai, zotta ma la zotta che corfurato mai. Zotta sotto il prete, fornisco in confessione. Che confurato mai, che confurato mai, è finita.